prima hanno detto sì ai tre scudi fiscali decisi negli ultimi 10 anni pagando aliquote irrisorie e ottenendo sia l'anonimato sia l'impunità. Poi, con una bella faccia tosta, hanno lasciato altri capitali non scudati all'estero. Un giochetto scoperto, almeno in certi casi, dalla Guardia di Finanza. Soltanto nei primi 9 mesi del 2011 sono stati accertati quasi 1,6 miliardi di euro grazie alle 4 liste di cittadini italiani scoperte in paradisi fiscali. Le liste Falciani, 572 milioni, Pessina, 584 milioni, San Marino Forlì, 428 milioni e Cunde, 1,7 milioni. Tutte somme che potrebbero ricadere nella norma che prevede la confisca per equivalenti in Italia, cioè di beni o proprietà degli evasori recidivi per un importo pari a quelli occultati. Ma dato che a 10 anni dal primo scudo fiscale che l'ha introdotta mancano i provvedimenti attuativi, nessuno degli evasori ha subito tale sanzione, in aggiunta a quella principale, che va dal 50 al 100% delle somme non dichiarate. Ciò non sta accadendo. Il motivo? Semplice, non sono stati ancora previsti i criteri di individuazione e valutazione dei beni da confiscare, l'autorità giudiziaria competente a decidere le eventuali controversie, le semplici regole basilari che consentono la concreta applicazione della confisca per equivalenza di immobili, auto, imbarcazioni, contanti, depositi bancari, titoli e altro posseduti in Italia dagli esportatori di capitale, scoperti in flagrante con le tasche piene all'estero, dopo aver scudato parte dei loro beni. Governo Monti, pensaci tu, non è mai troppo tardi. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore.